chiesto un momento di tregua, un passaggio più lento, un respiro profondo per fermarmi a pensare un po' più da vicino alle cose importanti sopra i soliti accordi. Dalle sconfitte c'è più da imparare, i ricordi importanti li vorrei conservare. Un nuovo mestiere devo imparare, perché forse sto per partire, non escludo il ritorno. No, non sto per sparire, resto in giro qui attorno. Avrò delle cose importanti da fare, figli che ho perso che devo incontrare. Ci sono persone che vorrei riabbracciare, perché tu chiedi perché, mentre io non so dirtelo, credimi, non so dirtelo, so soltanto che non devi soffrire per me. Nella vita sono stato fortunato, sono stato molto amato. Tutto l'amore che ho ricevuto è molto più di quel che ho dato. Ed ho insistito ed ho sbagliato, e tu lo sai se ci ho provato a meritare di averti qui per un saluto. Concedimi un altro giro, senza pesi sul petto, a fermare il respiro, me lo avevano detto, che la paura scompare in questi ultimi versi, e non si sa neanche quale verità raccontarsi. Del mio orologio, pochi secondi per trovare rifugio, mettere in musica il mio necrologio. Mi chiedi perché, mentre io non so dirtelo, credimi, non so dirtelo, so soltanto che devi soffrire per me. Nella vita sono stato fortunato, sono stato molto amato. Tutto l'amore che ho ricevuto è molto più di quel che ho dato. Ed ho insistito ed ho sbagliato, e tu lo sai se ci ho provato a meritare di averti qui per un saluto. Mi sono chiesto un momento di tregua, un passaggio più lento e un respiro profondo per fermarmi a pensare un po' più da vicino alle cose importanti sopra i soliti accordi.